impossibile comprendere una cultura se essa non ci appartiene. Vi sono espressioni, modi di dire, frasi idiomatiche, presupposti, che non possono essere afferrati se essi non rientrano nel contesto socioculturale che ci ha formati fino a essere quello che siamo. Quando una mia zia che non mi vedeva da anni mi salutò con degli improperi augurandomi degli accidenti, sfido chiunque che non appartenga alla mia cultura a comprendere che questi erano i più bei complimenti che poteva farmi. Una cultura è un cerchio chiuso, non un semicerchio. Chi è dentro è dentro, chi è fuori, per quanto desideri entrare, rimane inesorabilmente fuori dalla sua comprensione. Proprio per questo presupposto mi è sempre sembrato arduo e oltremodo difficile comprendere la Bibbia quale parola di Dio. Infatti, oltre a contenere degli scritti, più giovani dei quali ha 2000 anni, essa appartiene alla cultura orientale e più precisamente a quella ebraica, la quale, poiché sono occidentale, mi è più che mai sconosciuta. È evidente perciò che dopo 40 anni di costante lettura biblica io realizzi che la mia comprensione del testo sacro sia graduale e sempre più completa nel suo insieme. Alcuni interrogativi in merito al testo che leggevo mi si sono risolti in poco tempo, per altri sono corsi degli anni. Per altri sono ancora in attesa di una risposta. Uno di questi interrogativi era in merito al giudizio che gli scrittori biblici attribuiscono a alcuni personaggi storici famosi quali Abramo, Lot, Mosè, Davide, tanto per citarne alcuni. Le loro valutazioni mi sono sempre sembrate fuori posto, perché secondo la mia cultura non corrispondevano alla verità. Sapevo che la parola di Dio, nella sua stesura originale, è senza errori, ma ero anche cosciente che se essa aveva ragione io non avevo del tutto torto. Ero cosciente di conoscere in parte, ma dovevo comprendere la mia parte di errore. E così, con il tempo, ho compreso maggiormente di essere stato vittima della mia cultura. Qual era il mio problema? Non capivo perché gli scrittori biblici parlassero positivamente di Abramo, di Lot, di Mosè e di Davide, quando questi avevano commesso errori palesemente vistosi. Nelle loro valutazioni mentivano, oppure qualcosa sfuggiva alla mia attenzione? Le conclusioni alle quali sono arrivato mi hanno sorpreso. Parliamo di Abramo. Giacomo, il fratellastro del Signore Gesù, parlando di opere, scrisse in merito al patriarca: tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura, che dice: ora Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Giacomo 2, 22-23. Essere amico di Dio non è certamente un titolo che si può dare a chiunque, a meno che questa persona non abbia avuto un cammino particolare con Dio. Eppure, la vita di Abramo non è stata poi così eccelsa in santità. Fa pensare il fatto che davanti alle difficoltà abbia mentito, anche se in parte, e che per salvare la propria vita ha preferito esporre sua moglie all'adulterio, gesto, questo, che non scaturiva certamente da un atto d'amore. Eppure, Abramo è considerato non solo il padre della fede, ma anche l'amico di Dio. Perché? Giacomo, esprimendosi così in merito ad Abramo, aveva presente l'episodio del colloquio dell'Eterno con Abramo. Infatti leggiamo che prima di distruggere Sodoma e Gomorra, l'Eterno disse: celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto, perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Esto, Eterno, mettendo in pratica la giustizia e il Esto, equità, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso. Genesi 18, 17 e 19. Di sua spontanea volontà l'Eterno decise di confidare ad Abramo ciò che aveva in cuore come un amico confida ad un altro amico i suoi intimi propositi. Giacomo non tenne conto dei lati negativi di Abramo, come l'Apostolo Pietro non tenne conto quelli di Lot. Di lui scrisse: Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, e non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, e condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente, e scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. 2 Pietro 2, 4 a 8. Se Chan è una vita piena di errori è quella di Lot, il nipote di Abramo. Egli si separò da suo zio per prendere per sé l'intera pianura fiorente del Giordano, piantò le sue tende sempre più vicino alle coexi. La carica pubblica, città malvagie di Sodoma e Gomorra, fino ad arrivare a rivestire nell'amministrazione di quelle città, offerse le sue 2 figlie vergini ai pervertiti abitanti di Sodoma, e infine l'incesto consumato da Lot con le 2 figlie. Tutto questo non passa inosservato per chi legge la Bibbia, eppure la parola di Dio definisce Lot un giusto. Come poteva essere un giusto con una simile vita piena di errori? Pietro ha considerato Lot giusto perché nonostante vivesse in mezzo alla malvagità, nonostante l'incesto del quale non era responsabile, egli soffriva per ciò che era malvagio. Il giusto non è solo colui che non commette peccato, perché questo lo può fare anche un moralista, ma è colui che odia il peccato, chi soffre dell'ingiustizia anche se purtroppo è costretto viverci accanto. Proprio perché la figura di Lot era così emblematica, mi sembra di capire che Pietro ha voluto dare una pennellata diversa dalla possibile interpretazione della vita di Lot chiamandolo giusto. Sì, proprio lui che di punti ne aveva molti pochi. Pietro non ha mentito, ha solo voluto mettere in risalto una caratteristica positiva di Lot. La stessa cosa valse anche per Mosè, che l'autore della lettera agli Ebrei definì un uomo fedele in tutta la casa di Dio. Ebrei 3, 1 a 2. Eppure chi conosce la storia del popolo di Israele quando vagò nel deserto per 40 anni può facilmente ricordare che Mosè non entrò nella terra promessa proprio per un atto di infedeltà. Questo fatto è talmente eclatante che la figura di Mosè, per quanto sia stato un grande profeta, rimane per sempre leggermente adombrata dal peccato commesso per incredulità che lo portò a percuotere, anziché parlare la roccia. E credo proprio che per questo motivo l'autore della lettera agli Ebrei abbia messo in risalto la fedeltà di Mosè, fedeltà tra l'altro testimoniata dall'Eterno stesso da Aronne e Miriam. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Miriam. Ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi un profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Numeri 12, 7. È vero che la testimonianza dell'Eterno fu data prima che Mosè mancasse di fedeltà, ma la testimonianza di Dio non può essere invalidata dalla debolezza umana. Se l'Eterno testimoniò che Mosè era fedele in tutta la sua casa, nessuno ha il diritto di discutere la sua dichiarazione. Infine vi è la vita di Davide. Il re Davide è conosciuto come l'uomo secondo il cuore di Dio. 1 Samuele 13 e 14. Eppure l'uomo secondo il cuore di Dio non è stato certamente esente da gravi peccati quali l'ingratitudine, la malizia, la concupiscenza, l'omicidio, l'adulterio, l'avere ordinato di sua volontà un censimento. Ciò che stupisce è che gli scrittori sacri prenderanno Davide come esempio di fedeltà e di rettitudine, come nel caso in cui, narrando del re Giosia, scrissero: egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e seguì in tutto la via di Davide suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. 2 Re 22, 2 CFF, 1 Re 15, 11 11 4. 2 Re 14, 3. Oppure come nel racconto del re Achaz, alludendone al comportamento non retto, affermarono: Achaz aveva 20 anni quando iniziò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. 2 Re 28, 1. Perché gli scrittori sacri hanno preso come esempio Davide e non Daniele il profeta, o Giuseppe, il figlio di Giacobbe, dei quali non viene menzionato nessun peccato? Perché l'Eterno aveva testimoniato di Davide che era un uomo secondo il suo cuore, chi avrebbe avuto il coraggio di contraddire l'Eterno? Eppure se l'Eterno non avesse pronunciato quel giudizio in merito al re Davide, chi di noi oggi direbbe che Davide è stato un uomo secondo il cuore di Dio? Forse ci troveremmo spiazzati. Molto probabilmente, se la parola di Dio non lo dichiarasse, saremmo in grosse difficoltà nel giudicare Abramo, l'amico di Dio, Lot un giusto, Mosè fedele in tutta la casa di Dio e Davide un uomo secondo il cuore di Dio. Questi sono i nostri limiti di valutazione. Ma al di là di questi limiti, queste riflessioni ci insegnano che gli ebrei non erano morbosi nell'essere moralisti, o fissati nel fare degli inutili giudizi morali sul comportamento e sugli eventi che capitavano alle persone. E è vero che essi denunciavano con fermezza il male e riconoscevano con onestà il bene, ma non si soffermavano sul perché o sul perché o sul per come degli infausti eventi. E se avevano capito che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole perché, anche se l'uomo si affatica a cercare, non riesce a scoprirlo, e anche se il saggio dice di sapere, non è in grado di scoprirlo. Ecclesiaste 8:17. La parola di Dio dichiara che l'uomo raccoglie ciò che semina, Galati 6:7, ma non sta a noi giudicare quando lo raccoglie. Gli eventi della vita sono troppi complessi e intrecciati da mille aspetti opposti, perché si possano pronunciare dei giudizi moralistici. Dovremmo essere onniscienti. Perciò, anche se vediamo un Abramo che mente, e per questo ne porta le conseguenze, o un Lot che va a letto con le figlie, e da queste nascono popoli ostili al bene, o un Mosè che manca di fedeltà e per questo non entra nella terra promessa, oppure un Davide che commette adulterio e omicidio, e per questo tutta la vita, ha avuto guerre in famiglia, dobbiamo essere positivi, siamo chiamati a vedere, apprezzare e proclamare le qualità che in loro onorano Dio, sia la salvezza che il giudizio appartengono a Dio. Gli ebrei lo avevano capito. E noi? Marzo 2005? Ellero.